Ad alta voce, Anna Bonaiuto legge Lessico familiare di Natalia Ginzburg. 18ª puntata. Mio padre, d'altronde, era sempre molto preoccupato per qualcuno dei suoi figli. Si svegliava la notte e almanaccava su Gino. Lasciata la Olivetti, Gino si era stabilito a Milano ed era direttore consulente di grandi aziende. «L'ultima volta che è venuto mi è sembrato scuro», diceva di Gino mio padre. «Non vorrei che avesse delle noie. Sai che ha mansioni di grande responsabilità?» Gino era di noi il più fedele alle antiche abitudini familiari. Continuava ad andare la domenica in montagna, d'inverno e d'estate. Andava a volte ancora con Franco Rasetti, il quale ora abitava in America, ma ricompariva di tanto in tanto in Italia. «Come va bene in montagna, Gino?» diceva mio padre. «Va molto bene in montagna. Va benissimo anche in ski?» «No», diceva Gino, «in ski non vado bene affatto. Vado alla vecchia maniera. I giovani adesso sì vanno bene». «Tu sei sempre modesto», diceva mio padre, e dopo che se n'era andato ancora ripeteva: «Come modesto Gino». «Che intollerante quel Mario», diceva ogni volta che veniva Mario da Parigi. «Non c'è mai nessuno che gli piace, solo Chiaromonte gli piace». «Non vorrei che lo mandassero via dall'UNESCO», diceva. «La situazione politica in Francia non è mica sicura, io non sono tranquillo». «Che stupido è stato a prendere la cittadinanza francese. Chiaromonte non l'ha mica presa. Mario è stato proprio uno stupido». Mia madre, tuttavia, si inteneriva sui bambini di Mario quando lui glieli portava. «Com'è carino Mario coi suoi bambini», diceva. «Come gli piacciono!» «Sa tete, il folluidonné sa tete», diceva. «Sono proprio francesi». «La bambina è bellissima», diceva. «Ma è scatenata, è un vero satanasso». «Non li sanno educare», diceva mio padre. «Sono troppo viziati». «E a cosa serve avere i bambini se non si viziano?» mia madre diceva. «Ma ha detto che sono una borghese?» diceva mia madre quando Mario era partito. «Gli sembro borghese perché tengo gli armadi in ordine? Loro hanno un gran disordine in casa». Mario, che era così meticoloso, così preciso, lui che era come il Silvio, adesso è diventato tutto diverso. Però è contento. «Stupido. Mi ha detto che sono troppo di destra. Mi trattava come se fossi una democristiana». «Ma è vero che sei di destra», diceva mio padre. «Hai paura del comunismo? Ti lasci mettere su dalla Paola Carrara». «Non mi piacciono a me i comunisti», diceva mia madre. «Mi piacciono i socialisti, quelli di una volta. Turati, Bissolati. Com'era carino Bissolati. Ci andavo la domenica col mio papà. Forse questo Saragat non è tanto male. Peccato che ha una faccia che non sa di niente», diceva ancora mia madre, e mio padre tuonava: «Non dir sempiezi. Non crederai mica che sia socialista Saragat. Saragat è di destra. Socialismo vero è quello di Nenni, non quello di Saragat. Nenni non mi piace. Nenni come se fosse comunista. Da sempre ragiona Togliatti. Io quel Togliatti non lo posso soffrire. Perché sei di destra? Io non sono né di destra né di sinistra. Io sono per la pace». E usciva col suo passo di nuovo giovane, ritmato, glorioso, i capelli ormai bianchi al vento, il cappello in mano. Si fermava sempre un po' a casa di Miranda, la mattina quando andava a ordinare la spesa e il pomeriggio quando andava al cinematografo. «Hai paura dei comunisti?» le diceva Miranda. «Perché hai paura che ti levino via la serva?» «Certo, se viene Stalin a tirarmi via la serva lo ammazzo», diceva mia madre. «Come faccio a stare senza la serva, io che non sono buona di far niente?» Miranda era sempre là in fondo alla poltrona, col plaid, con la borsa dell'acqua calda, i biondi capelli spioventi sulle guance, la voce modulata, cantilenante, infantile. I suoi genitori erano stati presi dai tedeschi. Erano stati presi, come tanti sventurati ebrei, che non avevano creduto alla persecuzione. Si trovavano a Torino, al freddo, e se n'erano andati a Bordighera per non aver più tanto freddo. Bordighera era un luogo piccolo e tutti li conoscevano. Qualcuno li aveva denunciati ai tedeschi e i tedeschi li avevano presi. Miranda, quando aveva saputo che erano a Bordighera, gli aveva scritto che per carità se ne andassero, perché là tutti li conoscevano. Le grandi città erano più sicure. Ma loro avevano scritto in risposta che non facesse la stupida. Noi siamo gente tranquilla. Alla gente tranquilla non gli fa niente nessuno. Non vollero saperne di nomi falsi, di carte false. Gli sembrava una scorrettezza. Dicevano, chi ci tocca a noi? Siamo gente tranquilla. Così i tedeschi se li portarono via. Lei, la madre piccola, candida, ilare, malata di cuore. Lui, il padre grande, pesante, tranquillo. Miranda ebbe la notizia che si trovavano nelle carceri di Milano. Andarono là, lei e Alberto, cercando di arrivare a loro con lettere, viveri, indumenti. Non ottennero alcuna sorta di comunicazione con l'interno del carcere e seppero poi che tutti gli ebrei di San Vittore erano stati fatti partire per destinazione ignota. Se ne andarono, lei e Alberto, il bambino, a Firenze, con falso nome. Avevano due stanze vicino a Campo di Marte. Il bambino si prese il tifo e c'erano i bombardamenti e dovevano portarlo involtato in una coperta febbricitante al rifugio. Finita la guerra, tornarono a stare a Torino. Alberto riaperse lo studio. C'erano sempre nell'ingresso molti malati e Alberto, col camice bianco, lo stetoscopio penzolante sul petto, scappava ogni tanto in salotto a scaldarsi al termosifone e a farsi fare il caffè. Era ingrassato ed era diventato quasi calvo, ma aveva ancora sulla sommità del capo pennacchietti biondi, soffici e scomposti. Decideva a volte di fare la cura dimagrante. Stava a dieta e provava su di sé certe specialità mediche ricevute in omaggio. Ma nella notte gli veniva fame e andava in cucina a cercare nel frigorifero gli avanzi del pranzo. Avevano un grande frigorifero molto bello che gli aveva regalato Adriano perché Alberto l'aveva curato una volta che era stato male. E Miranda, che si lamentava sempre, s'era lamentata anche di quel regalo. «È troppo grande», diceva. «Cosa ci metterò? Io compro sempre solo un etto di burro alla volta». Ricordavano sempre quegli anni che erano stati in Abruzzo, al confino. Rimpiangevano sempre quegli anni. «Come si stava bene al confino, a Rocca di Mezzo», diceva Alberto. «Davvero che si stava bene», Miranda diceva. «Io non ero pigra, schiavo, me ne andavo col bambino a schiare. La mattina mi alzavo presto, accendevo la stufa. Non avevo mai mal di testa. Adesso sono di nuovo sempre stanca». «Non ti alzavi tanto presto», diceva Alberto. «Non idealizziamo. La stufa non l'accendevi, veniva la donna». «Che donna, se non l'avevamo la donna?» Il bambino, l'antico ferroviere, era ormai un ragazzo. Andava a giocare con i miei figli a football al Valentino. Era grosso, biondo, con la voce grossa. Aveva tuttavia, nella grossa voce, un eco della cantilena di sua madre. «Mamma», diceva, «posso andare al Valentino coi cuginetti?» «Guardate di non farvi male», diceva mia madre. Miranda diceva, «non aver paura, son prudenti come serpenti». «Però è abbastanza ben educato», dicevano Alberto e Miranda del loro bambino. «Chissà chi l'avrà educato, mica noi. Si vede che si è educato da solo». «Forse domenica vado in montagna», diceva Alberto stropicciandosi le mani. Alberto andava, anche lui come Gino, in montagna, ma non ci andava alla maniera di Gino, che era quella che ci aveva insegnato mio padre. Gino in montagna andava solo o tutto al più a volte col suo amico Rasetti e il suo piacere nell'andare in montagna era il freddo, il vento, la stanchezza, lo scomodo, il dormire poco e male, il mangiare poco e in fretta. Alberto invece andava con gruppi d'amici, si alzava tardi, se ne stava a lungo nelle hall degli alberghi a chiacchierare e a fumare e faceva, al caldo nei ristoranti, pranzi caldi e buoni. Si riposava a lungo in pantofole e infine schiava. Quando schiava, schiava anche lui buttandosi con furia nella fatica, come aveva imparato a fare nell'infanzia. E non sapendo dosare la sua fatica né misurare le sue proprie forze, tornava a casa stanchissimo, nervoso e con profondi solchi intorno agli occhi. Miranda della montagna non voleva saperne, perché aveva in odio il freddo e la neve, salvo quell'antica neve di Rocca di Mezzo, sulla quale diceva d'aver schiato così bene e che rimpiangeva sempre. «Com'è stupido quell'Alberto», diceva. «Va in montagna e spera sempre di divertirsi, e invece poi non si diverte mica tanto e si stanca. Che divertimento è? E poi cosa vuole divertirsi adesso? Da giovani ci divertivamo a schiare, a fare qualunque cosa». Ora non siamo più tanto giovani e non ci divertiamo più. Oltre era far le cose da giovani, oltre è farlo adesso. Com'è deprimente questa Miranda, diceva Alberto. Tu mi deprimi, tu mi tarpi le ali. Veniva a volte Vittorio la sera da loro, quando era di passaggio a Torino. Vittorio era uscito dal carcere durante il governo Badoglio. Era stato poi uno dei capi della resistenza in Piemonte. Era del Partito d'Azione. Aveva sposato Lisetta, la figlia di Giua. Morto il Partito d'Azione, era diventato socialista. L'avevano eletto deputato, viveva a Roma. Lisetta non era molto cambiata dal tempo che andavamo in bicicletta e mi raccontava i romanzi di Salgari. Era sempre magra, dritta e pallida, con gli occhi accesi e col ciuffo sugli occhi. Sognava, a 14 anni, imprese avventurose. E aveva avuto qualcosa di quello che aveva sognato durante la Resistenza. Era stata arrestata a Milano e incarcerata a Villa Triste. L'aveva interrogata alla ferita. Amici travestiti da infermieri l'avevano aiutata a fuggire. Poi si era ossigenata i capelli per non essere riconosciuta. Aveva avuto, tra fughe e travestimenti, una bambina. Per molto tempo, finita la guerra, le erano rimaste ciocche ossigenate fra i corti capelli castani. Quanto a suo padre, era diventato anche lui deputato e andava e veniva tra Roma e Torino. E sua madre, la signora Giua, veniva ancora sempre a trovare mia madre, ma si litigavano perché mia madre la trovava troppo di sinistra. Discutevano sui confini dell'Asia e la signora Giua le portava il calendario Atlante di Agostini per dimostrarle, documenti alla mano, che aveva torto. La signora Giua si occupava della bambina di Lisetta perché Lisetta, essendo molto giovane, non aveva ancora tanta voglia di far da madre a quella sua figlia, che l'era nata senza che lei quasi avesse avuto il tempo di accorgersene, passata com'era, di colpo, dai sogni fanciulleschi alla vita adulta senza un attimo per fermarsi a pensare. Lisetta era comunista e vedeva dovunque e in tutti pericolosi resti del Partito d'Azione. Ormai non esisteva più il Partito d'Azione, il PDA, come lei lo chiamava, ma ne vedeva profilarsi l'ombra in ogni angolo. «Siete dei PDA, avete un'inguaribile mentalità da PDA», diceva Alberto e Miranda. Vittorio, suo marito, la guardava come si guarda un gatto giovane giocare con un rotolo di spago e rideva di lei, sussultando nel mento prepotente e prominente nelle grosse spalle. «Non si può più vivere a Torino, che città noiosa», diceva Lisetta. «Una città così PDA! Io non ci potrei più vivere». «Hai proprio ragione», diceva Alberto. «Si muore di noia, sempre le stesse facce». «Che stupida che è questa Lisetta», Miranda diceva. «Come se ci fosse un posto dove ci si può divertire. Non ci si diverte più». «Andiamo a mangiare le lumache», diceva Alberto stropicciandosi le mani. E uscivano. Traversavano Piazza Carlo Felice e i portici fiocamente illuminati, quasi deserti alle 10 di sera. Entravano in una trattoria quasi vuota, lumache non ce n'erano. Alberto si faceva portare un piatto di pasta asciutta. «Ma non facevi la cura dimagrante», diceva Miranda, e Alberto le diceva «Sta zitta, tu mi tarpi le ali». «Com'è faticoso quell'Alberto», si lamentava Miranda con mia madre al mattino. «È sempre irrequieto, vuole sempre far qualcosa, vuole sempre mangiare qualcosa o bere qualcosa o andare da qualche parte, spera sempre di divertirsi». «E come me», diceva mia madre, «anch'io vorrei divertirmi, vorrei fare un bel viaggio». «Ma va», diceva Miranda, «si sta così bene a casa». «Forse per Natale andrò a Sanremo da Elena», diceva, «ma non so se andarci, in fondo cosa ci vado a fare, tanto vale che resto qua». «Sai che ho giocato al casinò di Sanremo?» raccontava mia madre al suo ritorno. «Ho perso! Anche quello stupido di Alberto ha perso! Abbiamo perso 10.000 lire!» «La Miranda?» raccontava mia madre a mio padre. «Ha giocato al casinò di Sanremo, hanno perso 10.000 lire!» «10.000 lire?» tuonava mio padre. «Ma guarda che imbecilli che sono! Digli di non giocare mai più. Digli che glielo proibisco assolutamente. E scriveva a Gino: quello stupido di Alberto ha perso una forte somma al casinò di Sanremo. Mio padre, le sue idee sul denaro erano diventate, dopo la guerra, più che mai nebulose e confuse. Una volta, ancora durante la guerra, aveva chiesto ad Alberto di comprargli 10 scatole di latte condensato. Alberto gliele aveva procurate alla borsa nera, pagandole più di 100 lire l'una. Mio padre gli aveva chiesto quanto gli doveva. «Niente», aveva detto Alberto, «non importa». Mio padre gli aveva messo in mano 40 lire e gli aveva detto «tieni pure il resto». «Sai che sono andate molto giù le mie incet», diceva Miranda a mia madre. «Forse le vendo». E faceva, come ogni volta che parlava di danaro vinto o perduto, un sorriso allegro, aguzzo e malizioso. «Sai che la Miranda venderà le sue incet», raccontava mia madre a mio padre. «E dice che anche noi faremmo bene a vendere le immobiliari». «Cosa vuoi che sappia quella simpia della Miranda?» urlava mio padre. Tuttavia ci ripensava, chiedeva a Gino: «Credi anche tu che dovrei vendere le immobiliari? L'ha detto Miranda? Miranda, sai, se ne intende di borsa. Ha molto fiuto. Suo padre, poveretto, era un agente di cambio». Gino diceva: «Io di borsa non ne capisco proprio niente». «Già, è vero. Tu non ne capisci proprio niente. Noi in famiglia abbiamo poco fiuto per gli affari». «Noi i soldi siamo buoni soltanto a spenderli», diceva mia madre. «Tu, certo», diceva mio padre. «Ma io non direi certo che spendo troppo. Il vestito che porto, sono 7 anni che ce l'ho». «E infatti si vede, Beppino», diceva mia madre. «È tutto consumato, tutto rappato. Dovresti fartene uno nuovo». «Non ci penso neanche, figurati. Questo è ancora buonissimo. Guai a te se mi dici di farmi un vestito nuovo». «Anche Gino», diceva, «non è niente spendereccio. È modesto. Ha abitudini molto modeste». «La Paola sì che spende troppo. Voi altri avete tutti le mani bucate, meno Gino. Tutti megalomani siete voi altri». «Gino», diceva, «è generoso con gli altri e per sé modesto. Il meglio di tutti è Gino». Veniva a volte da Firenze la Paola. Veniva in automobile, da sola. «Da sola sei venuta in automobile?» le diceva mio padre. «Hai fatto male, è pericoloso. Come fai se ti si rompe una gomma? Dovevi venire con Roberto. Roberto, lui di macchine sì che se ne intende molto. Aveva la mania delle automobili fin da piccolo. Mi ricordo che non parlava d'altro». E diceva: «Beh, contami di Roberto». Roberto ormai era un uomo e andava all'università. «Mi piace molto Roberto, ha un carattere così dolce», diceva mio padre. E diceva: «Però gli piacciono troppo le donne. Guarda che non si sposi, che non gli venga in testa di sposarsi». Roberto aveva un motoscafo e usava andare d'estate col suo amico Pier Mario in giro con quel motoscafo. Una volta avevano avuto un guasto al motore e il mare era in burrasca e se l'erano vista brutta. «Non lasciarlo andare in motoscafo solo col Pier Mario, è pericoloso», diceva mio padre alla Paola. «Devi importi, non hai autorità». «La Paola non sa educare i suoi figli», diceva nella notte a mia madre. «Li ha viziati troppo. Fanno tutto quello che vogliono. Spendono troppo, sono dei megalomani». «C'è la Tersilla», diceva la Paola entrando nella stanza da stiro. «Che bellezza vedere la Tersilla». La Tersilla si alzava, sorrideva scoprendo le gengive, chiedeva alla Paola dei suoi figli, della Lidia, di Anna, di Roberto. La Tersilla faceva i calzoni per i miei bambini. Mia madre aveva sempre paura che restassero senza calzoni. «Se no restano col culo di fuori», diceva. Per la paura che si trovassero col culo di fuori, gliene faceva sempre fare 5 o 6 paia per volta. Litigavamo io e mia madre su questo argomento dei calzoni. «È inutile fargliene tante paia», io dicevo. E lei diceva: «Già, tu sei sovietica, tu sei per la vita austera, ma io i bambini li voglio vedere in ordine, non voglio mica che abbiano il culo di fuori». Quando c'era la Paola, mia madre se ne andava con lei a braccetto sotto i portici, chiacchierando e guardando le vetrine. Si sfogava con la Paola contro di me. «Non mi dà spago», diceva, «non parla. E poi è troppo comunista, è una vera sovietica». Per fortuna che ho i miei bambini, diceva, intendeva dire i miei figli. Come sono carini, come mi piacciono. Mi piacciono tutti e tre, non saprei quale scegliere. Per fortuna che ho i bambini, così non mi stufo. La Natalia, lei li manderebbe sempre col culo di fuori, ma io no. Io li tengo in ordine. Io faccio venire la Tersilla. Il vecchio sarto Belom era morto da tempo. Ora mia madre i vestiti se li faceva fare in un negozio sotto i portici, chiamato Maria Cristina. Per i golf e le camicette andava dalla Parisini. «È della Parisini?» diceva mostrando alla Paola una camicetta che si era comprata. Nello stesso modo, come diceva delle mele che venivano in tavola, «son carpendu». «Vieni», diceva alla Paola, «andiamo dalla Maria Cristina. Avrei voglia di farmi un bel tailleur». «Ma non farti un tailleur», diceva la Paola. «Ne hai tanti, non vestirti troppo da Svizzera». «Fatti invece un bel paltò nero, elegante, un bel capo importante che lo metti la sera quando vai dalla Francis». Mia madre si ordinava un paltò nero. Poi trovava che le andava male di spalle e lo faceva aggiustare in casa dalla Tersilla. Poi non lo metteva lo stesso. «È troppo da madama», diceva. «Forse lo regalo alla Natalina». Appena era partita la Paola, si ordinava un tailleur. Compariva al mattino da Miranda col nuovo tailleur. «Ma come?» diceva Miranda. «Ti sei fatta un altro tailleur!» E mia madre diceva «Molti vestiti, molto onore!» La Paola aveva a Torino le sue amiche e a volte si incontrava con loro e mia madre era sempre un po' gelosa. «Com'è che non sei con la Paola?» le chiedeva Miranda vedendola arrivare e mia madre diceva «Oggi se n'è andata con la Hilda!» «Non mi piace mica tanto a me quella Hilda! Non è tanto bella, troppo alta!» «Non mi piacciono a me le donne tanto alte. Poi parla troppo della Palestina». Hilda ora aveva lasciato la Palestina, ma ne parlava lo stesso. Il fratello, Sion Segre, aveva un'industria di prodotti farmaceutici. Erano lui e Alberto sempre amici. Alberto diceva alla Paola «Stasera andiamo con la Hilda e Sion a mangiare le lumache?» «A me non mi piacciono le lumache», diceva mia madre, e se ne restava in casa a guardare la televisione. Mio padre disprezzava la televisione, diceva che era un sempiezzo, però nello stesso tempo approvava che mia madre la guardasse perché era un regalo di Gino. Anzi, se lei una sera non l'accendeva e se ne stava in poltrona a leggere un libro, lui diceva «Com'è che non accendi la televisione? Accendila, se no è inutile averla. Gino te l'ha regalata e tu non la guardi. Gli hai fatto buttar via i soldi, ora almeno guardala». Mio padre la sera leggeva nel suo studio. Mia madre con la donna guardava la televisione. Dopo la Natalina, mia madre aveva avuto sempre donne venete. Se le faceva venire da un paese chiamato Motta di Livenza. Ne aveva avuta una che una sera ebbe uno sbocco di sangue. Ci spaventammo moltissimo tutti e Alberto, chiamato d'urgenza, disse che dovevamo farle fare l'indomani una radiografia. La donna piangeva, disperata. Alberto disse che però non gli sembrava un'emottisi, gli sembrava avesse un graffio in gola. Difatti, dalla radiografia non risultò nulla, era un graffio in gola. La donna tuttavia piangeva sempre, disperata, e mio padre disse «Questi proletari che paura che hanno di morire!» Mia madre, ogni volta che la Paola ripartiva, l'abbracciava piangendo. «Come mi dispiace che te ne vai, ora che mi ero abituata a averti qui!» E la Paola diceva «Vieni un po' da me a Firenze!» «Non posso», diceva mia madre, «papà non mi lascia!» «Poi la Natalia va al suo ufficio, io devo badare i miei bambini». La Paola, quando le sentiva dire «i miei bambini», si indispettiva perché era un po' gelosa di loro. «Non sono i tuoi bambini, sono i tuoi nipoti. Anche i miei figli sono tuoi nipoti. Vieni a stare un po' con i miei figli». Mia madre a volte andava. «Vedrai anche Mary?» le diceva mio padre. «Guarda di andare subito a far visita a Mary». «Ci vado, di certo», diceva mia madre. «Ho proprio voglia di vedere Mary. Mi piace Mary». «Com'è simpatica Mary», diceva al ritorno. «È così per bene. Non ho mai visto nessuno così per bene come Mary. Mi sono molto divertita a Firenze. Mi piace Firenze. E la Paola ha quella bella casa». «Io invece non posso soffrire Firenze. Non posso soffrire la Toscana», diceva mio padre. Durante la guerra, quando l'olio non si trovava, la Paola gli mandava dell'olio perché lei aveva olivi nel terreno intorno alla sua casa di Fiesole e mio padre s'arrabbiava. «Non voglio olio. Non posso soffrire l'olio. Non posso soffrire la Toscana! Non voglio gentilezze!» «La Paola non è mica stata asina con te?» chiedeva mia madre. No, povera Paola, la mattina mi faceva portare la colazione a letto. Facevo una buona colazione lì a letto, al caldo. Stavo benissimo. Meno male, perché la Paola a certe volte è un'asina. E chi ti impedisce di far colazione a letto anche qui? Chiedeva Miranda a mia madre. No, qui mi alzo. Faccio subito una bella doccia gelata, poi mi faccio i miei soliti tè, ben imbacuccata, ben coperta, e intanto mi scaldo. Faceva i suoi solitari in sala da pranzo. Entrava Alessandra, la mia bambina, buia, arrabbiata, perché non le andava al mattino ad alzarsi né ad andare a scuola. E mia madre diceva, «Ecco Maria Temporala!» «Vediamo se farò presto un bel viaggio. Vediamo se qualcuno mi regala un bel villino. Vediamo se Gino diventa molto famoso. Vediamo se a Mario, invece di quel posto all'UNESCO, gliene danno un altro ancora più importante.» «Vaniloquio!» diceva mio padre passando, sempre questo eterno vaniloquio. Metteva l'impermeabile per andare al laboratorio. Ora non andava più al laboratorio prima dell'alba, ora ci andava alle 8 del mattino. Sulla porta alzava le spalle e diceva, chi vuoi che ti regali un villino? Sempia, che non sei altro. Quella che abbiamo ascoltato è la 18ª puntata di questo ciclo di Ad Alta Voce, in cui Anna Buonaiuto legge Lessico Familiare, Natalia Ginsburg. Il programma Ad Alta Voce a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Luigi Iavarone. Potete scaricare in podcast tutte le proposte di Ad Alta Voce andando su questo sito adaltavoce.rai.it.